Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. No, con la legge elettorale chi se ne frega. No, aborro il dibattito sulla legge elettorale. Comunque sta venendo fuori una schifezza, mi sembra. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il giudizio lapidario sulla legge elettorale di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Parleremo di politica, in realtà solo sfiorando la legge elettorale, ne abbiamo parlato lungamente ieri, anche se Renzi ha dichiarato proprio in questi ultimi minuti che la legge elettorale non si tocca, è quella che è stata concordata e quindi arriverà così da votare in Parlamento senza modifiche, mentre invece qualcosa che avrà diverse modifiche dovrebbe essere il Jobs Act, perché proprio su queste modifiche è stata raggiunta un'intesa oggi faticosa, no? Dopo giorni di tensioni, di ripensamenti, di fughe, di rischi di scissione, si è arrivata a questa intesa sul Jobs Act con la minoranza interna del PD, proprio per delle modifiche, probabilmente il reintegro per i licenziamenti discriminatori. Comunque ne parleremo diffusamente dopo. Voi avete sempre la possibilità di esprimere le vostre opinioni, riflessioni, osservazioni attraverso due canali o gli sms a questo numero, che è sempre il solito, 349-238-6666, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che non avete bisogno di aspettare la diretta, è sempre lì per le vostre opinioni. E quindi vediamo un po' che giornata è stata quella di oggi. Jobs Act nel PD, raggiunta l'intesa, ma il nuovo centrodestra chiede un vertice di maggioranza. Incontro informale intanto in serata a Palazzo Chigi. Processo Rubi, condannati Fede, Mora e Minetti, ma con pene ridotte. Maltempo, seconda vittima in Lombardia, un operaio annega crema mentre apre una chiusa, spaventa intanto la piena del Po. Tor Sapienza, dopo gli ultimi atti di violenza, via i minori immigrati dal centro di accoglienza della periferia di Roma. Milano, lettera della Curia ai professori, segnalateci le scuole pro-gay, poi la diocesi si scusa. Calcio, la FIFA conferma i mondiali in Qatar e Russia, nell'assegnazione non vi fu corruzione, ma il capo degli ispettori dice: è stato stravolto il mio rapporto. E partiamo quindi, come vi dicevo, dal Jobs Act, sul quale pare che il PD abbia trovato un'intesa dopo lunghe tensioni con la minoranza interna del partito. L'esecutivo non metterà la fiducia, quindi, sul disegno di legge lavoro alla Camera, ma saranno introdotte alcune modifiche sulle quali si voterà. Per esempio, viene reintrodotto, come vi dicevo, il reintegro per i licenziamenti discriminatori. Questa intesa però ha fatto infuriare il partner di governo del PD, il nuovo centrodestra, che ha subito chiesto un vertice di maggioranza, anche se vedevo poco fa che c'è stato un incontro informale intanto a Palazzo Chigi, hanno rilasciato delle dichiarazioni Sacconi e Carfagna, poi ne parleremo. E fa sapere anche Renzi che il 1 gennaio entreranno in vigore le nuove regole sul lavoro, dice un grandissimo passo avanti. Di questo parleremo, vi dicevo, in modo approfondito, e ci sarà anche un esponente della minoranza del PD che ci dirà com'è che sono arrivati a questa intesa. Intanto il presidente di Confindustria, Squinzi, avverte che andare alle urne senza aver fatto prima le riforme sarebbe un danno per il paese. Sentiamo Squinzi. Sarebbe un risultato storico ridurre la pressione fiscale sul lavoro. Così come uno scarto netto positivo lo si avrebbe con un mercato del lavoro flessibile e più adeguato alle esigenze delle imprese. Nel frattempo la CISL si dissocia dallo sciopero generale della CGIL, che ha indetto appunto questo sciopero, ne abbiamo parlato ieri, per il 5 dicembre. Il mondo sindacale si divide sullo sciopero generale indetto dalla CGIL per il 5 dicembre. La scelta della Camusso di far incrociare le braccia ai suoi iscritti per protesta contro Jobs Act, legge di stabilità e contratti della pubblica amministrazione non piace infatti alla leader della CISL, Furlan. Non mi sembra un modo per unire il mondo del lavoro, spiega la Furlan a Mix24. Non ci pensiamo nemmeno, non è oggi lo strumento adatto. Perché c'è il giorno dopo, e il giorno dopo di uno sciopero generale bisogna che il paese cambia e riparte. È un processo un po' più complesso da mettere in piedi. Noi pensiamo che per ottenere i risultati vadano fatte altre cose. È uno sciopero proclamato prima del tempo, aggiunge Barbagallo Will. Dalla CGIL non si fa attendere la replica della Camusso, che spiega: ognuno si assume la responsabilità di decidere se contrastare provvedimenti che non vanno bene o se ci si limita a subirli. Altro fronte caldo intanto quello dell'AST di Terni. Incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra governo e sindacati. Chiediamo all'esecutivo di fare di più per sbloccare la situazione come spiegano i rappresentanti dei lavoratori. Domani, nuovo vertice al Ministero, sarà presente anche l'azienda. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E appunto, parlando di Barbagallo, del segretario generale aggiunto alla UIL, era ieri, se ricordate, chi c'era insomma di voi qui a Effetto Notte, e ha detto che c'è qualcosa di sbagliato nella tempistica soprattutto di questa proclamazione dello sciopero. Sentiamolo. Noi abbiamo, dopo la manifestazione dei pensionati e dei pubblici dipendenti, auspicato che il governo facesse sentire la propria voce, e stamattina il governo ci ha convocato per lunedì 17 alle ore 19 per discutere intanto della riforma della pubblica amministrazione e, per quanto ci riguarda, del contratto della pubblica amministrazione. Quindi noi siamo per verificare se c'è una volontà di cambiamento nel governo, che prima non ci voleva manco ascoltare, adesso ci ha convocato, per vedere se ci sono immagini di una trattativa per dare risposta al pubblico impiego con il nuovo contratto e ai pensionati, e per quanto attiene la legge di stabilità, le modifiche che abbiamo chiesto e anche il Job Act. Quindi siamo per aspettare il 17. È singolare che mentre stiamo aspettando finalmente che il governo ci chiamasse, ora che ha deciso di fare l'incontro, proclamiamo prima del tempo uno sciopero. Così la pensa Barbagallo della UIL ieri, come ha detto Effetto Notte, lo avete sentito. Sul fronte economico intanto arrivano nuovi allarmi sulla situazione in Europa. Dietro l'angolo, avverte l'agenzia Standard & Poor's, c'è il rischio di una terza recessione. L'allarme è elevato, l'eurozona rischia un'altra crisi, a lanciare l'allerta quasi in contemporanea a più fonti, a partire da quella più autorevole, la Banca Centrale Europea, che taglia le stime di crescita per quest'anno di 2 decimali al più 0,8% e di 3 decimali il prossimo. Cala pure l'inflazione, stimata a 0,5 punto per il 2014, mentre la disoccupazione a causa della debolezza della ripresa è prevista solo in lenta discesa. Anche per questo, afferma il bollettino mensile della BCE, il consiglio direttivo dell'Eurotower ha conferito agli esperti e ai comitati competenti dell'Eurosistema l'incarico di assicurare la tempestiva predisposizione di ulteriori misure da attuare se necessario. Confermato l'impegno di Francoforte a ricorrere a strumenti non convenzionali qualora le operazioni di facilitazione del credito non portino a un incremento del bilancio. Più drastico il giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's: i rischi per l'eurozona di un triple dip, cioè di una terza recessione, sono aumentati. Per Jean-Michel Six, capo economista di S&P, avvicinandoci al 2015 dobbiamo riconoscere che la ripresa ha perso molto slancio e una terza recessione avrebbe un effetto deleterio. A confermare i peggiori sospetti potrebbe contribuire domani la pubblicazione delle stime del PIL dell'eurozona. Gli analisti prevedono un magro più 0,1% nel terzo trimestre, il segnale di una stagnazione economica nei fatti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi c'è stata anche la sentenza sul processo Ruby, condannati Fede, Mora, Minetti, ma con una riduzione delle pene. I rinvii a giudizio per induzione, favoreggiamento aggravato della prostituzione, anche minorile, erano arrivati ad ottobre 2011. A luglio 2013 la condanna in primo grado, oggi la sentenza d'appello, che riduce la pena ma di fatto non cambia la sostanza. E questa è in estrema sintesi la storia del Ruby Bis, che ha come protagonisti Lele Mora, Nicole Minetti e Emilio Fede, imputati in un processo che ruota attorno alle feste nella villa di Arcore di Silvio Berlusconi, il quale a questo punto è l'unico essere stato assolto neanche 4 mesi fa. Mora è il solo a tirare un sospiro di sollievo grazie ai 7 anni diventati 6 anni e 1 mese, inclusa la bancarotta. La Minetti si prende 3 anni, sempre meglio dei 5 in primo grado, ma il legale vuole l'assoluzione e farà ricorso. Stessa cosa per Emilio Fede, per cui resta l'istigazione alla prostituzione, ma non minorile, e i 7 anni diventano 4 anni e 10 mesi. Che la pena sia stata mantenuta in limiti abbastanza elevati, questo evidentemente non può fare piacere, anche perché io credo che meritasse una assoluzione piena. Così ci spiega l'avvocato Michele Paniz, ma ricorsi a parte, alla fine nessuno andrà in carcere, almeno secondo i legali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questo punto sentiamo anche se c'è una tregua per quanto riguarda il maltempo, gli aggiornamenti in questo senso. Giornata di tregua dal maltempo, anche se il nord resta col fiato sospeso per la nuova forte perturbazione attesa per sabato. Intanto si contano i danni e nuove vittime, l'ultima ancora in Lombardia. A Muscazzano, nel Cremonese, un uomo di 36 anni è annegato nella roggia gonfiata dalle piogge, tradito dal piede appoggiato sulla pala di un vecchio mulino mentre tentava di alzare una paratia e far defluire l'acqua. In Brianza resta alto il livello del Lambro, con il parco di Monza ancora allagato, ma a spaventare di più in Lombardia è il fiume Po, il cui livello nel basso Pavese sta crescendo a dismisura. A Milano, dopo l'esondazione del Seveso che ha fatto crollare un tratto di strada sul Naviglio Pavese, la situazione si sta normalizzando con le strade ripulite e le scuole della zona nord che domani riapriranno. In Piemonte, che conta una vittima nel biellese, il bilancio è di un centinaio di famiglie sfollate e danni per 100 milioni di euro. E oggi, nella Liguria, piegata dall'ennesima alluvione, è arrivato il capo della Protezione Civile Gabrielli. A Lavagna sta incontrando il governatore Burlando e i sindaci delle zone colpite. Intanto, proprio a causa della nuova allerta meteo attesa per il fine settimana, a Genova si è deciso di anticipare la partita di rugby Italia-Argentina in programma allo stadio Ferraris da sabato pomeriggio a domani alle 17:15. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo alla cronaca con i disordini a Roma di questi giorni. Nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Tor Sapienza, nella periferia di Roma, dopo le ennesime tensioni nel quartiere, con proteste, lanci di bottiglie e urla da parte di un gruppo di residenti agli ospiti di Via Morandi, è stato deciso il trasferimento dei minori non accompagnati in altre strutture della capitale. Sentiamo allora il microfono di Enza Loddo, l'assessore al sostegno sociale e sussidiarietà del Comune di Roma, Rita Cutini. Noi evidentemente come assessorato stiamo seguendo fin dai primi istanti tutta la vicenda, sia come assessorato sia come dipartimento. Questo è un centro che accoglie richiedenti asilo, accoglie minori, sia minori stranieri non accompagnati, sia minori italiani che vivono una situazione di grave disagio. Mi preme sottolineare che è un centro che da tanti anni che sta lì ed è un centro ovviamente piccolo ed è un centro che fa dei percorsi di integrazione, di inclusione H24, cioè ci sono degli operatori presenti in ogni momento della giornata e della notte. Abbiamo seguito con preoccupazione, i ragazzi sono scioccati per quanto è accaduto, quindi il centro è stato anche fortemente danneggiato oltretutto e quindi è evidente che è purtroppo anche inagibile. Dove saranno mandati? Saranno il trasferimento avverrà in più di uno centro già presente sul territorio cittadino e anche provinciale. L'inagibilità della struttura ci ha fatto decidere in questa direzione. Ci torneremo più tardi su questo tema, anche per capire, per analizzare quali sono davvero i motivi di disagio sociale che sono diffusi non solo nella periferia di Roma ma anche di altre grandi città, anche Milano per esempio. Ne parliamo dopo. Proprio di Milano è diventato un caso la circolare della curia milanese di Don Rota, in particolare, che chiedeva di indagare su come si è affrontato nelle classi il tema dell'omosessualità, cioè chiedeva agli insegnanti di religione che insegnano a Milano di segnalare le scuole dove si parla di omosessualità. La diocesi ambrosiana ha detto poi, dopo una serie di polemiche, dopo che si è accusata di omofobia, di schedare le scuole che parlano di omofobia, la diocesi ha detto era soltanto un'indagine informale, in serata si è scusata parlando di espressioni, di argomenti, di termini che ha usato in questa lettera inappropriati. Andiamo sulla letteratura. Il suo One Day è stato uno dei casi editoriali degli ultimi anni. David Nichols ritorna in libreria con noi, lo presenta in questi giorni a Book City Milano. 5 anni di attesa. Tanto ci è voluto per avere un nuovo libro di David Nichols, l'autore del super bestseller One Day, diventato anche un film con Anne Hathaway e Jim Sturgess. Ci sono voluti 5 anni per trovare la storia giusta, quella di Douglas Timothy Peterson, scienziato, razionale e preciso, che un giorno si sente dire dalla moglie «Credo di volerti lasciare». Questo è solo l'inizio di noi. Non voglio suonare presuntuoso, ma per me Douglas è diventato quasi un personaggio in carne e ossa, racconta ora Nichols. Scrivere questo libro è stato come fare l'attore, come identificarsi in un personaggio. Sono diventato un po' Douglas e a un certo punto ho cominciato anche a parlare come lui nella vita reale, a muovermi come lui. Anche noi un giorno potrebbe diventare film. Gliel'hanno chiesto in tanti, per primo Russell Crowe, ma lui per ora dice ancora no. At the moment it's only a book. Vorrei che per il momento fosse solo un libro. Magari tra un po', dice, affiderò la sceneggiatura a qualcun altro e anche la scelta dell'attore. Non dirò mai chi ho in mente io. Questo deve restare un segreto. So it's one of those things that has to stay secret. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere, poteva mai mancare il calcio per gli appassionati, la FIFA ha confermato Qatar e Russia 2018-2022 per i mondiali che ci dovranno essere in questi paesi, ma con una specie di giallo che poi cercheremo di chiarire più tardi. Intanto, prima di lasciarci per gli aggiornamenti della viabilità, volevo leggere qualche vostro messaggio proprio sulla lettera della Curia milanese con la polemica e poi le scuse di stasera. Edward dice: se lo Stato italiano chiedesse al Vaticano una lista dei pedofili si scatenerebbe un putiferio, un'ingerenza, dice, inaccettabile quella lettera. Irene: abbasso l'ora di religione cattolica con insegnanti nominati dalla Curia. Poi Sebastiano: io direi dalle elementari un poco alla volta, visto che oggi ce n'è un eccesso di volgarità nei gay, tutto per farsi sentire. Naturalmente io accetto la loro omosessualità. Insomma, parlava di gradualità nel parlare nelle scuole, parla di un eccesso di volgarità nei gay, non so bene a quale si riferisca. Hermes invece fa una domanda che lancio nel vuoto, così nell'etere, diciamo, che potete rispondere poi su Effetto Notte, la pagina Facebook, oppure al 349-238-6666. Dice: un professore dovrebbe comunicare agli allievi di essere gay? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo insieme. A proposito di notizie, Alessandra scrive al 349-238-6666: scusate, il vostro servizio sul processo Ruby si è concluso con la frase nessuno degli imputati, comunque nonostante pene ridotte, entrerà in carcere. Mi potete spiegare il perché? Perché c'è ancora il grado della Cassazione, quindi per il momento non è definitiva, ecco, la condanna, ed è chiaro che gli imputati e gli avvocati chiederanno poi di andare ulteriormente avanti con la Cassazione. Adesso però vi ricordo quali sono le notizie principali di oggi e poi cominceremo a approfondirne alcune. Intesa sul Jobs Act nel PD, sull'articolo 18 in particolare, sembra il nuovo centrodestra, evoca la crisi e Renzi dice è un grande passo avanti. Intanto Sacconi e De Girolamo dichiarano che ancora la partita è tutta aperta. Si allenta la morsa della deflazione, i prezzi risalgono a ottobre, ma da Standard & Poor's e il Fondo Monetario Internazionale c'è l'allarme sull'Eurozona. È stato liberato il tecnico italiano rapito in Libia a luglio e l'ISIS intanto decapita un altro ostaggio e al-Baghdadi, il autoproclamatosi califfo, dice arriveremo fino alla marcia su Roma. Caccia agli immigrati a Tor Sapienza, trasferiti i bambini, la questura individua intanto gli aggressori di Salvini, sono 13 denunciati. Processo Ruby, di cui abbiamo appena parlato, condanne ridotte nella sentenza d'appello per Mora, Fede e Minetti. Mora dice: sono felice, avevo paura di tornare in cella. E poi il maltempo che concede una tregua, però fa un'altra vittima a Crema, e da domani sera torna l'allerta al nord, ci sono timori in particolare per il Po. E poi la FIFA che conferma i mondiali in Qatar e Russia per il 2018 e 2022. E adesso parliamo del Jobs Act, di questa notizia grossa di oggi della politica. Nel PD si è trovata un'intesa dopo una mattinata di delicate trattative. In sintesi, l'esecutivo non metterà più la fiducia sul disegno di legge lavoro alla Camera, ma saranno introdotte alcune modifiche sulle quali si voterà sì, probabilmente, al reintegro per i licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari senza giusta causa in determinate fattispecie, tanto per usare i termini del politichese. Ma saluto intanto Betta Fiorito da Roma, ben ritrovata dopo ieri. Betta, ciao. Ciao Roberta, ciao radioascoltatori. Tu che bazzichi tutto il giorno lì in Parlamento, riesci a entrare dove altri non entrano, ti sembra effettivamente che l'intesa sia stata raggiunta? Però hai sentito, il nuovo centrodestra ha cominciato a incavolarsi e poi ha chiesto un vertice di maggioranza, ma c'è stato credo un incontro informale a Palazzo Chigi, visto che c'erano delle dichiarazioni di Matteoli e di Carfagna, sì. Se non sbaglio. Sì. Allora, la cosa è questa. Dunque, dopo una direzione del PD un po' drammatica anche per il Premier, dove non si è proceduto ad un voto perché la minoranza era in subbuglio anche su questo nuovo patto del Nazareno. Ieri sera, no? Direzione del PD. La ciccia poi alla fine è venuta fuori nel Jobs Act. Ma perché? Perché il Jobs Act, o quindi la riforma del mercato del lavoro, tanto per farci capire da tutti i nostri ascoltatori, è una cosa che interessa molto l'area a sinistra del partito, che in questo momento è la minoranza Dem. Quindi è insorto da Torre, che tu fra un po' avrai in trasmissione, sì. È insorto Fassina, sono insorti tutti, Civati, insomma questo Jobs Act, la fiducia così com'è, non va bene al Senato. Allora, qui va fatto un tipo un flashback. La direzione del PD aveva già modificato il Jobs Act, cioè la minoranza era riuscita a ottenere che ci fosse il reintegro per i licenziamenti senza giusta causa, discriminatori e disciplinari, ma non lo aveva inserito nella delega al lavoro, ovvero nel Jobs Act. Adesso la minoranza ha ottenuto questo. Questo fa in modo che intanto si placchino le proteste, per esempio, della CGIL. Che cosa succederà a questo sciopero ponte del 5 dicembre? Oramai sembra come una arma spuntata. Inoltre Renzi ha accolto le idee della minoranza, inserirà questa norma nel Jobs Act, che è una norma di sinistra. Non si andrà quindi allo scontro all'interno del partito, tutto bene, lui ha detto è molto soddisfatto, il PD si ricompatta, anche se Cooper oggi in Transatlantico a noi ci ha detto vediamo un attimo il disegno di legge. Dopodiché è insorto il nuovo centrodestra, perché la coperta è sempre troppo corta, e a una norma di sinistra, si chiama nuovo centrodestra, insorgono. Sono andati poi a Palazzo Chigi, eccetera, eccetera, poi alla fine finirà come un pasticcio all'italiana in cui il Jobs Act arriverà anche la fiducia, non sul testo del Senato, questo ce l'ha detto Guerini a Montecitorio oggi, ma sicuramente su questo nuovo testo. A quel punto con la fiducia sarà blindata non solo la minoranza del PD, ma questa volta sarà blindato proprio il nuovo centrodestra, cara Roberta. È un pasticcio all'italiana, però alla fine la riforma del lavoro si farà, questo è importante. Atterrerà, come se vogliamo usare sempre, non sulla cometa, ma questa volta su un pianeta che cerca e tenta di riformare il lavoro e di rilanciare il lavoro, se questo poi sia possibile in con queste zona, misure no, ma a parte l'Italia, in un'eurozona che diciamo è in stagnazione, tutta l'eurozona, anche la Germania rallenta, questo si vedrà. Vediamo cosa succede, però insomma poi ognuno grida nella sua parte, ricordiamo che questa è una maggioranza molto estesa, per cui ci sono idee di politica economica completamente diverse. Grazie cara Betta Fiorito, buona serata. Ciao Betta. Buona serata anche a voi. Ciao. Visto che era stato citato, evocato, eccolo qui per magia in collegamento l'onorevole Alfredo Dattorre del PD. Buonasera Dattorre. Buonasera. Uno degli esponenti del PD più critici e della minoranza più critici verso Renzi e il governo Renzi, però dicevamo che questa intesa è stata trovata. Adesso la collega Fiorito diceva che prima o poi comunque si voterà lo stesso la fiducia. Insomma, a che accordo siete arrivati Dattorre? L'accordo per il momento è di metodo, è positivo, nel senso che il governo voleva dire che non si poteva toccare nulla, che il testo del Senato è inemendabile, che per la seconda volta il Parlamento avrebbe dovuto votare una delega in bianco, invece alla fine poi Renzi ha capito che non poteva essere così e ha accettato il principio che il Parlamento, la Camera può intervenire, può cambiare la delega del Senato, che non ci sarà la fiducia sullo stesso testo del Senato, una modifica sarà probabilmente quella che ci è stata spiegata prima, ce ne saranno delle altre, ci saranno soprattutto, che è la cosa che sta più a cuore a tanti di noi, risorse aggiuntive sugli ammortizzatori sociali. Adesso dobbiamo capire bene quante, come, questo riguarda la legge di stabilità, però sul piano del metodo è sicuramente un passo indietro positivo del governo, anche perché riconosce non tanto il ruolo della minoranza, del PD, che conta fino a un certo punto, ma anche il ruolo del Parlamento. Allora, Dattorre, sentiamo un attimo prima la ministra Boschi e poi il sottosegretario Delrio che danno rassicurazioni sull'iter e sulla velocità poi di approvazione del Jobs Act. Sentiamo. Il 26 novembre la Camera dei Deputati voterà il Jobs Act, un successo quindi per il governo che ha chiesto e ottenuto una data finale certa, perché sappiamo che lavoratori e imprese non possono più aspettare, c'è urgenza di ripartire con l'economia nel nostro paese. No, ma il Jobs Act ha una sua solidità, serve al paese, sono sicuro che la maggioranza responsabilmente lo approverà nei tempi che ci siamo dati insieme. Ora però, come dicevamo, il nuovo centrodestra è insorto perché dice: attenzione, qui allora che fate? Vi riaccordate tra di voi e fate gli emendamenti sulle cose su cui non siamo d'accordo, per esempio l'articolo 18. Sentiamo Nunzia Di Girolamo del nuovo centrodestra, però appena prima di questo incontro informale di cui davano notizie le agenzie a Palazzo Chigi in serata, insomma un'oretta fa. Noi non crediamo che il Parlamento sia il luogo nel quale si risolvono i conflitti del PD, né tantomeno si ratificano le decisioni assunte in direzione del Partito Democratico. Per cui chiediamo a Matteo Renzi immediatamente un vertice di maggioranza per discutere della riforma del Jobs Act e soprattutto se effettivamente, come dice Speranza, ci sarà una modifica del provvedimento. E in base a queste rimostranze appunto del nuovo centrodestra, vi dicevo, c'è stato questo incontro dal quale sono usciti questa sera Maurizio Sacconi e Nunzia Di Girolamo del nuovo centrodestra, dicendo: in realtà abbiamo capito che la partita è tutta aperta. Lei è d'accordo, Alfredo Dattore? Questo bisognerebbe chiederlo al governo. Il governo oggi in conferenza dei capigruppo ha fatto capire che rinuncia alla intangibilità della delega e quindi si rende disponibile a delle correzioni significative. Naturalmente poi sarà la commissione a fare il suo lavoro, quindi il mio giudizio oggi è positivo sul metodo. Sul merito dovremmo valutare. Io credo che Renzi abbia creato un problema inutile, perché guardi, ad agosto, quando Alfano diceva dobbiamo cancellare l'articolo 18, e Renzi diceva giustamente allora che l'articolo 18 è l'ultimo problema dell'economia italiana, nessuno prendeva sul serio Alfano, che per motivi puramente di propaganda riprendeva una vecchia bandiera di Berlusconi e di Sacconi. Poi improvvisamente Renzi ha cambiato linea, ha deciso da un giorno all'altro di andare su questa posizione e adesso deve gestire questo problema con l'NCD. Mi auguro che ci riesca, ma guardi che non c'è nessuno che realisticamente crede che sia la modifica dell'articolo 18 la condizione per far ripartire l'economia italiana. Questa è una ricetta sbagliata che ci viene suggerita da quelli che in Europa hanno praticato la politica dell'austerità e che, non volendo cambiare la politica europea, dicono al governo italiano di far ripartire l'economia riducendo i salari, come è avvenuto in Spagna, in Grecia, in Portogallo. Ma è una politica sbagliata e inaccettabile per il nostro paese. Alfredo Dattore, la posso fare arrabbiare? Sì, intanto succede in questo. Nel senso che vedo un'agenzia di questi istanti, tutte con i pallini rossi, tutta stellata di quelle proprio importanti, le dichiarazioni che fanno rumore. Jobs Act, Renzi dice dal 2015 l'articolo 18 sarà superato. Allora vado a leggere dentro l'agenzia. Con il Jobs Act si interverrà sul meccanismo dell'articolo 18 che va finalmente superato. Lo ribadisce Matteo Renzi. Dal 1 gennaio dice ci saranno nuove regole sul lavoro, minori costi per gli imprenditori, più soldi in busta paga per i lavoratori, una riduzione delle forme contrattuali. Non si tolgono diritti ma si riducono gli alibi. Ma il concetto centrale è che questo articolo 18 verrà superato. Com'è allora la questione sull'articolo 18? Si tratta di vedere. Da quello che si capisce, in ogni caso, l'idea dell'abolizione totale dell'articolo 18 non c'è più. Ci sarà una riforma, dobbiamo vedere come sarà congegnata. È chiaro che Renzi non potrà fare totalmente marcia indietro, altrimenti perderebbe la faccia. Io credo che però in cuor suo abbia capito che questa strada, la linea dello scontro frontale col sindacato, col mondo del lavoro e dell'appiattimento sulle ragioni di una parte, poi una parte soltanto delle imprese, perché a molti imprenditori in realtà dell'articolo 18 non interessa nulla, è una linea sbagliata. E quindi poi, come lui, che è capace anche di fiutare il clima, adesso a modo suo sta facendo una retromarcia. Quindi la ministra Boschi ha parlato di tempi brevi, quindi a breve capiremo effettivamente in che direzione si va. Io intanto la ringrazio, onorevole Alfredo Dattore. Grazie a lei, buona serata. Grazie, buona serata. Ci fermiamo, prendiamo questa pausa, poi voi potete continuare a scrivere i vostri messaggi e ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme, Roberta Giordano con voi. Stavo guardando i vostri messaggi velocemente. Enzo da Varese scherza sul Jobs Act con tutte queste variazioni, lo chiama il Blob Act. E poi ci sono varie risposte sulla domanda di Hermes sulla pagina Facebook di Effetto Note, che chiedeva ma forse un professore dovrebbe dichiararlo di essere gay. Nicoletta dice: ma che un professore etero dovrebbe forse dichiararlo? E poi ci sono altri messaggi che vediamo dopo con più tempo magari di leggere. Vi riassumo le notizie. Jobs Act nel PD, raggiunta l'intesa come abbiamo sentito, ma il nuovo centrodestra chiede un vertice di maggioranza. Intanto un incontro formale a Palazzo Chigi, escono Sacconi e De Girolamo del nuovo centrodestra e dicono la partita è tutta aperta. Processo Rubi, condannati Fede, Mora e Minetti ma con pene ridotte. Maltempo, seconda vittima in Lombardia, un operaio annega Crema mentre apre una chiusa, spaventa intanto la piena del Po. A Tor Sapienza, dopo gli ultimi atti di violenza, via i minori immigrati dal centro di accoglienza della periferia di Roma. Milano, lettera della Curia ai professori, segnalateci le scuole pro gay, poi la diocesi si scusa. E per il calcio la FIFA conferma i mondiali che ci saranno in Qatar e Russia. Parliamo adesso di quello che sta succedendo nella periferia romana e non solo, ma in particolare in questi giorni avete sentito di questa protesta nei confronti degli immigrati a Tor Sapienza, che è un quartiere, lo definisco un po' la banlieue, come le periferie francesi, insomma piuttosto degradate, se così possiamo dire, senza offendere chi ci abita. Però ci sono stati veramente episodi di grave tensione nei confronti dei cittadini stranieri che erano ospitati in centri d'accoglienza. La situazione poi è precipitata, esplosa in modo particolare, riesplosa questa mattina e si sono verificate lanci di bottiglie, di pietre contro il centro d'accoglienza. All'origine cosa c'è stato? Il rifiuto di far entrare un gruppetto di stranieri in un bar. Qui non entrate, non è per voi, sarebbe stato detto, e dopo il rifiuto alcune donne hanno deciso di portare il caffè agli immigrati che stazionavano davanti al centro di accoglienza, dove c'era ancora un cordone delle forze dell'ordine perché è presidiato in questo modo la zona, e ne è nato poi un alterco quando si è avvicinato un gruppo di residenti, insomma lanci di sassi, di bottiglie. Quindi la situazione è sempre tesa, tanto che si è deciso di trasferire in un altro posto i minori di questo centro. Ma questo forse è soltanto un sintomo di un disagio sociale che si allarga sempre di più. Per esempio oggi il capo della Protezione Civile Gabrielli ha detto una cosa che potrebbe sembrare così apparentemente distante, ma a proposito di quello che succede con le alluvioni, il maltempo, ha detto: i fatti di Carrara, l'esasperazione che ha portato la gente a occupare il municipio, si sta diffondendo perché la gente è stanca, è in sofferenza permanente. O diamo una risposta subito o ci perdiamo per strada un pezzo di paese. Ne voglio parlare con il professor Mauro Magatti. Buonasera professore. Buonasera. Che è docente di sociologia della globalizzazione all'Università Cattolica di Milano. Quindi secondo lei si possono mettere un po' insieme questi due fatti, questa dichiarazione e quello che sta succedendo a Tor Sapienza? È vero che lì si parla di immigrati, ma non credo che sia proprio soltanto quello il problema, professore. Sì, come dice Gabrielli, c'è una grande sofferenza sociale diffusa in giro per tutto il paese, legata alla disoccupazione, alla crisi economica e poi a condizioni di vita che sono precarie, e quindi diciamo in questo caso condizioni diverse sono accomunate dal periodo storico che viviamo, che poi arriva a colpire un po' la vita di intere comunità, di intere famiglie. Quindi sono l'esplosione di un malessere, possiamo dire, forte, diffuso, no? Che non è legato soltanto alla concentrazione di un numero di immigrati lì nella periferia, che non riguarda soltanto i danni, per esempio le alluvioni sono fortissime a Genova come a Carrara, però certamente il momento di crisi economica, i sacrifici, le difficoltà, dove rischiano di portare, professor Magatti? Adesso non alimentiamo l'allarmismo, per fortuna queste sono scintille, non stiamo parlando di un incendio, sono scintille che devono essere prese sul serio come avvisaglie, diciamo così, non siamo di fronte a una catastrofe. Ciò che accomuna diciamo i due casi è un po' il fatto che la città italiana si è impoverita, è sotto tensione ormai da anni, quindi un disastro naturale come può essere un'alluvione in grado di accendere gli animi, perché la gente perde quell'equilibrio già precario che era costruito nella propria vita quotidiana, e dall'altra parte invece un centro di immigrati che comunque è sempre un luogo che crea tensioni, che crea fatica nel contesto circostante, diventa un po' il punto su cui si sprecano la propria rabbia, la propria insoddisfazione. Quindi diciamo situazione di fatica, di affaticamento generale, ci possono essere questi fattori che ti fanno perdere l'equilibrio e scatenano delle reazioni che non sono mai giustificate, ben inteso, ma che nello stesso tempo devono essere prese sul serio da chi ha responsabilità. Quindi ci vogliono delle risposte politiche, anche se lei ha scritto sul Corriere, se non sbaglio, che spesso la politica un po' specula, strumentalizza. Beh, abbiamo avuto in questi giorni il leader della Lega Salvini che ha preso delle iniziative certamente in qualche modo legittime ma anche molto discutibili. Bisogna stare molto attenti perché è come maneggiare dell'esplosivo, non è mai, come dire, in un'idea saggia speculare sul malessere altrui e approfittarsene, diciamo così, anche perché chiaramente Salvini non ha nessuna risposta da dare. Questo è il problema, e quindi questo tipo di comportamenti in questo momento rischia di essere un po' avventuroso. Professor Magatti, chi è che ha le risposte da dare, chi le deve dare queste risposte? Ma qui in questo paese si continua a parlare da anni e le cose vanno sempre peggio. Io credo che bisogna rendersi conto che l'Italia è in fondo a un lungo declino storico. Bisogna fermarsi, fissare obiettivi, raggiungere un obiettivo, poi raggiungere un altro, fare un passo dopo l'altro. Ci vuole qualcuno che sia nel mezzo e che ricostituisca un po' di fiducia collettiva. Speriamo che chi è al governo capisca questo che è l'elemento fondamentale. I nostri problemi non si risolvono con la bacchetta magica, si risolvono solo rimettendoci a fare dei passi concreti uno dopo l'altro. La vediamo subito con queste cose come auspici, come speranze. I problemi sono abbastanza grossi, perché anche a Milano, no, si parla di periferia, delle case occupate, c'è una generazione che può fare di più adesso, secondo lei, in politica? Ma guardi, la situazione è grave perché ci sono da 6 anni che siamo in regressione economica, preceduti da 8 anni in cui la crescita non c'è più stata. È già un miracolo, come dire, che la protesta sociale sia così contenuta. Ci vuole certamente una nuova generazione politica, ma ci vuole soprattutto la capacità di fermare questa frammentazione continua della società italiana. Questo è il punto. Sembra che non riusciamo più a fissare un obiettivo e raggiungerlo, e così si va solo indietro. La famosa visione di cui parlano molti, no? Che cioè non abbiamo una visione del paese, del nostro futuro. Sì, la visione, cioè non è che si entra in una crisi del genere per sbaglio, si entra in una crisi del genere perché non si è capita una fase storica. Noi siamo stati bravissimi a interpretare la fase del dopoguerra, ma quella famosa globalizzazione di cui abbiamo sentito parlare 1000 volte non abbiamo capito come paese cosa vuol dire, quali impegni produce, ma anche quale solidarietà nuova deve creare. Grazie professor Mauro Magatti, grazie intanto. Grazie a voi. Buona continuazione, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sono tanti gli argomenti, quindi vi ricordo molto brevemente le notizie principali di oggi, a partire dall'intesa avvenuta all'interno del PD sul Jobs Act. Non ci sarà la fiducia alla Camera, intanto però c'è l'ira del nuovo centrodestra. E poi ancora caccia ai migrati a Tor Sapienza, trasferiti bambini in un altro centro di accoglienza. La questura individua poi gli aggressori di Salvini, 13 denunciati. Il processo Rubi, condanne ridotte per Mora, Fede e Minetti nella sentenza d'appello. E il maltempo che concede una tregua ma fa un'altra vittima a Crema, e domani sera torna l'allerta al nord, timori per i Po. Europa 24 notte. Sapete cosa hanno in comune lo zoo di Rotterdam, il museo del mare in Lituania, il Creta Aquarium in Grecia, ancora la City Hall di Belfast, eccetera eccetera, soprattutto però la Cappella Sistina, capolavoro assoluto dell'arte rinascimentale. Cosa hanno in comune questi luoghi? Si chiamano LED for Art o Illuminate, sono i due progetti pilota finanziati dall'Unione Europea all'interno del programma quadro per la competitività e l'innovazione, per un totale di oltre 2 milioni di euro. Obiettivo qual è? Riqualificare i luoghi d'arte e cultura attraverso una nuova illuminazione che consenta anche un notevole risparmio energetico. Da oggi sono 7.000 i LED puntati sul Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti, le altre opere dei grandi artisti italiani, Botticelli, Perugino, Pinturicchio e altri maestri del 400, all'interno della Cappella Sistina. Una illuminazione che ha dato nuova vita a questi affreschi. Il progetto per la Sistina è stato coordinato da Osram e ha coinvolto l'Università della Pannoia in Ungheria, l'Institute de Ricerca en Energia de Catalunya in Spagna e lo studio di progettazione Faber Tecnica in Italia. Il coordinatore scientifico di Faber Bloomberg, tecnica Marco Frascarolo al microfono di Alessandra Schepisi. Una luce che sia in grado di tirare fuori in maniera corretta queste tonalità, questi singoli pigmenti con caratteristiche molto, molto dettagliate e molto diverse, ovviamente è un po' il passo che mancava a completamento dei restauri di 20 anni fa. In quel momento in realtà già era stato fatto un nuovo impianto di illuminazione, che però aveva alcuni limiti dovuti alla tecnologia del tempo, e quindi l'impianto attuale effettivamente riesce ad alzare quella che tecnicamente si chiama resa cromatica, cioè la capacità della luce a rendere correttamente tutti i colori, per cui il visitatore oggi può vedere realmente la Sistina sia come spazio architettonico che come superfici pittoriche nel suo massimo splendore. Quindi una luce più forte però non invasiva? In realtà più che più forte direi che è più distribuita. L'impianto precedente prevedeva, per motivi di non invasività degli apparecchi, prevedeva apparecchi posizionati al di fuori delle finestre, quindi lo stesso superficie da cui passava la luce naturale diffondeva anche la luce artificiale, e questo faceva sì che praticamente gli apparecchi non si vedevano, e questo era il risultato voluto, però la distribuzione della luce non era gestita e indirizzata dove si voleva, ma usciva da queste finestre in maniera diffusa, ovvero casuale, per cui avevamo delle parti molto illuminate, anche troppo, e delle parti, soprattutto andando verso le parti più basse, quindi non la volta, non Michelangelo, ma i quattrocentisti, che anche loro sono estremamente importanti dal punto di vista artistico, dove avevamo dei livelli estremamente bassi, per cui il visitatore entrava e vedeva dei contrasti molto forti che non gli consentivano di avere una corretta visione d'insieme dello spazio e degli affreschi. Ecco, l'altro elemento che può essere interessante è il fatto che sia stata scelta uno spettro luminoso, ovvero una tonalità di bianco con caratteristiche di questo bianco molto, molto precise, che è stato definito attraverso un metodo misto, chiamiamolo diciamo esperienziale da una parte e strumentale dall'altra. Quindi da una parte gli esperti dei Musei Vaticani, guidati dal professor Paolucci, hanno individuato il tipo di luce che preferivano su una serie di ipotesi che noi gli abbiamo sottoposto in maniera realistica sul posto, e d'altro canto sono state fatte delle misure sugli spettri, sugli indici di resa cromatica, sui parametri scientifici legati a questi aspetti, e alla fine è stato trovato uno spettro luminoso che fosse la sintesi di questi due modi di lavorare. Ovviamente c'è anche un risparmio energetico. Il risparmio energetico è enorme per le tecnologie scelte e il livello di progettazione molto spinta che è stata seguita, e si toccano ponte in determinate condizioni del 90% di risparmio energetico. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso è il momento di parlare di sport, di calcio naturalmente, il calcio domenica non sempre, però in questo caso parliamo dei mondiali, i prossimi mondiali, perché sapete che con il calcio si guarda molto in là, del 2018, che alla fine non è tra moltissimo, è tra meno di 4 anni, alla Russia, i mondiali del calcio alla Russia, e del 2022 al Qatar. Sapete che c'erano stati problemi, si parlava del fatto che l'assegnazione fosse stata non chiarissima, non trasparente, però invece pare che non ci sia nessun problema. È giusto, Dario Ricci? Mi pare che la FIFA abbia detto tutto a posto, confermiamo i mondiali Qatar e Russia. Sì, è arrivata questa dichiarazione ufficiale della FIFA al termine dell'inchiesta che era stata aperta soprattutto sull'assegnazione di quelli del Qatar. C'era stato il Sunday Times che aveva denunciato uno scandalo corruzione, denunciando in un'inchiesta che ai dirigenti qatarioti gli avrebbero pagato una mazzetta di 4 milioni di euro e più per influenzare la scelta del board board della FIFA per l'assegnazione di questi mondiali. Ebbene, si è aperta questa inchiesta, c'è stato un procuratore capo, diciamolo così, Michael Garcia, che ha condotto questa inchiesta, e oggi la FIFA ha detto che in realtà quell'assegnazione, così come quella alla Russia, era regolare. Ora, qual è il problema? Che lo stesso Michael Garcia, vista però l'affermazione della FIFA ufficiale di oggi, a sua volta ha detto che la FIFA ha fornito una lettura erronea e incompleta del suo rapporto. Quindi, oddio, di fatto, quindi non sono chiare le cose, non sono così come sembravano. Non sembra nulla essere, è come appare. Se il procuratore dice che il suo rapporto è stato non scritto da lui in modo erroneo, ma letto completamente capovolto, bisognerà capire che cosa hanno voluto leggere i soloni della FIFA in questa. E l'esegesi chiara e definitiva quando ci sarà? Credo già sia già cominciata in queste ore, perché chiaramente lo scandalo così non va a ridimensionarsi, ma anzi ad ampliarsi. Non a caso la federazione inglese, che è quella che aveva già avanzato la sua disponibilità per sostituirsi a quella qatariota nell'organizzazione del mondiale 2022, ha già parlato apertamente di farsa. Mondiale del Qatar che poi presenta tutta una serie di problemi a partire dalla data, perché sicuramente non si potrà giocare in estate come d'abitudine, viste le temperature proibitive. Allora, più già o meno che livello? Ma siamo intorno ai 40-45 e seppure puoi giocare a calcio negli stati futuristici del Qatar, che gli emiri promettono di dotare di aria condizionata full optional all inclusive, il problema è che quando esci da quello stadio diventa problematico appunto non avere subito una doccia a portata ecco, di mano, esattamente, cioè. Quindi si sta discutendo, si sta cercando anche con l'Associazione Calciatori Mondiale e con l'Asso Club Mondiale uno spazio probabilmente intorno a dicembre, altri dicono verso aprile, per giocare, per avere almeno 3 settimane disponibili per fare questo mondiale, e però è un problema del tutto aperto, e quindi questa commissione d'inchiesta sembrava il grimaldello per risolvere anche questa questione del calendario, perché dice gli togliamo e ce li rifacciamo in Inghilterra, fa fresco e tutto bene. Invece, però ci potevano anche pensare prima, al di là di questa cosa della corruzione, però anche sulla questione climatologica. No, ma quella me, ormai lo sai che nel calcio internazionale le condizioni in cui giocano i calciatori sono l'ultima cosa, anche perché il mondiale ormai... Ma mi pare anche giusto, detto tra noi, senza che i calciatori non c'entra niente, perché giocare a calcio a 50 gradi non è bello, così come se adesso io accendo l'aria condizionata a palla qua dentro non è bello neanche fare la radio. No, quindi non è... no, il freddo no, il lo sai che però, tu sei sempre populisticamente via, contro populisticamente, i calciatori, dai, i nostri calciatori. Idoli, i nostri idoli, con lo voglio dire. Ma pagati coi vizi ma che hanno. Ho capito, io adesso accenderò l'aria condizionata giocare, al massimo e piano piano. Cosa Roberta facevano Giordano gli atleti di Olimpia di una volta? Che facevano? Beh, quando era caldo pure loro cercavano la palma, poverini. Anzi, erano premiati con una palma d'olivo proprio forse per rinfrescare. Dario Partigiano. Comunque, vedremo anche queste vicende come vanno a finire ancora sospese. Grazie, caro Dario Ricci.